Dora Palumbo. Io parto dalle dichiarazioni che ha fatto il candidato sindaco Matteo Lepore durante un dibattito tra le candidate e i candidati sindaci che è stato organizzato dall'Ordine degli Architetti. A suo dire non esiste nessuna crisi, è la città più ricca d'Italia e si sta incamminando verso un futuro radioso. Allora, se così stanno le cose, io dico allora si tratta soltanto di dividere equamente la ricchezza tra tutti gli abitanti della città, come sosteniamo poi noi comunisti. In realtà io penso che non sia come dice Matteo Lepore e temo che la crisi che ha interessato l'Italia dal 2008, accentuata poi con la pandemia, abbia interessato anche la nostra città. Il modo di uscirne è quello di puntare, a mio avviso, sulle produzioni di avanguardia, incrementare la ricerca senza trascurare la valorizzazione della città da un punto di vista culturale e turistico. In quest'ottica il comune può fare la sua parte, fornendo servizi ai cittadini e alle imprese. Dico fornire servizi e non contributi, che spesso sono elargiti con criteri a dir poco discutibili, col rischio che poi ne possano beneficiare sempre gli stessi soggetti. Inoltre non dobbiamo costruire nuove opere per rilanciare l'economia. Mi ricordo il presidente dell'ANCI Emilia Romagna aveva detto che bisogna realizzare il passante, cioè l'allargamento della tangenziale dell'autostrada, perché quest'opera è un volano per l'economia. Io invece sostengo che non bisogna devastare il territorio per rilanciare l'economia, ma sia il caso invece di riqualificare il patrimonio pubblico. Ad esempio, mettiamo in sicurezza tutti gli edifici pubblici, e parlo di sicurezza dal punto di vista sismico, a volte sentiamo che mancano i certificati antincendio, e quindi mettiamo in sicurezza le scuole, le biblioteche, i musei e anche il patrimonio edilizio pubblico.